Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Oggi avrei dovuto parlare di supereroi. L'immagine che maggiormente mi suggeriva l'idea di supereroe contemporaneo era quella fantastica foto che vedete oggi su molti giornali di Renata Polverini che imbocca il rigatone pieno di sugo a Bossi. E Alemanno, il sindaco di Roma, che gira con il paiolo il pentolone di polenta. Tutto in piazza, tutto davanti ai palazzi dell'istituzione. Tutti felici a mangiare coda alla vaccinare cassuela per dimostrare che l'Italia è un paese unito. E si mostra che è unito nel luogo in cui la famiglia è maggiormente unita. A tavola, se magna in piazza. Beh, sarebbe stata una fantastica trasmissione. Poi invece, ieri sera, sul far delle 23, ho visto qualcos'altro e ho cambiato idea. Avvocato, allora le voglio dire questo, la notizia è terribile, cioè noi stiamo dando una notizia terribile con grandissimo imbarazzo perché si sta parlando dell'uccisione di Sara Concetta e purtroppo addirittura da parte... C'ho Concetta qua... qui di fianco. No, è chiaro, no, dico io infatti mi rivolgevo a Concetta. Concetta, qui c'è il quotidiano di Puglia che dice che lo zio avrebbe confessato. Improvvisa svolta nel giallo di Avetrana, Sara Scazzi sarebbe stata uccisa in questi minuti. I carabinieri stanno cercando il corpo. Secondo le prime indiscrezioni, Michele Misseri avrebbe confessato nel corso di un interrogatorio durato diverse ore. Allora, questo è il quotidiano di Puglia. Si stava allora, dando la notizia che già circolava sulle agenzie di stampa da qualche minuto della risoluzione del caso Sara Scazzi. Ne avrete sentito parlare già nei notiziari, la notizia su cui si parlerà molto oggi, si approfondirà molto oggi. Già i falegnami e gli attrezzisti sono lì pronti a fare i plastici con il pozzo artesiano, con la tenuta, con i grandi ulivi secolari, con la casa, con tutte le fattispecie, perché la televisione comincia il suo grande racconto sulla risoluzione di uno dei delitti che ha appassionato da quest'estate, da agosto, quando era scomparsa questa ragazzina di 15 anni. Si è detto di tutto, è colpa di Facebook, hanno scoperto che aveva un profilo, che probabilmente è fuggita, mangiata, inghiottita alla rete. Invece no, l'ha ammazzata lo zio porcone che c'è in tutte le famiglie, come sempre accade, come nella più triste e più trita tradizione popolare. Beh, tutto questo fa parte del mondo, fa parte della vita, fa parte del racconto, delle cronache. Ma mi ha colpito che questa cosa accadeva in un luogo ben preciso. Questo luogo si chiamava televisione. Era in onda, come avete sentito, la trasmissione Chi l'ha visto, condotta da Federica Sciarelli. Una brava collega, fa uno sporco lavoro che prima o poi qualcuno dovrà fare, perché non c'è un luogo istituzionalmente dedicato al ritrovamento, definizione di una banca dati di persone scomparse. Quindi lo fa la televisione. Chi l'ha visto segue dei casi, alcuni ne risolve, alcuni non ne risolve, comunque muove un po', dà l'idea che qualcuno si interessi delle persone scomparse. Chi l'ha visto fatalmente, puntualmente, strategicamente, aveva un fantastico collegamento. Era collegata dal salottino buono dell'assassino. Sì, perché Michele Messeri aveva dato la casa alla troupe di Chi l'ha visto, dove è stata radunata tutta la famiglia della ragazza che fino a mezz'ora prima era soltanto una ragazza scomparsa. E nel fatidico istante in cui è uscita la notizia che lo zio aveva confessato di averla brutalmente uccisa, forse violentata, adesso non voglio seguire il corso della vicenda, spogliata e ficcata in un pozzo artesiano, nascosta, coperta, seppellita, e poi dopo un po' di tempo, ultimamente, tirato fuori il telefonino, finto di aver trovato il telefonino e via dicendo. Ma di questo parleremo. Io voglio descrivervi la scena che si vedeva in televisione, ma senza nessun intento moraleggiante. Io scrissi subito su Facebook: guardate che vergogna, stanno dando la notizia in televisione davanti alla madre che è inquadrata in primo piano. La madre ascoltava il leggere delle notizie sulla figlia che era stata uccisa dallo zio, e lì c'era anche la nipote, la figlia dell'assassino, c'era il fratello, c'era l'avvocato. Erano radunati nel salotto buono della famiglia, medio salotto buono di una media famiglia italiana, con la vetrinetta pantografata alle spalle. Era piena di gadget, piena di una sorta di anfore in finto Limoges, non so bene quale citazione, tante, ne ho contate 3, 4, 5 anfore. a sinistra dell'inquadratura, in basso, c'è una sorta di ninfa, una ricostruzione di una ninfa classica, anche lì in ceramica. E poi c'erano tutti i bicchieri, le chincaglierie, i vasi di cristallo dove si mettono i fiori quando il giorno del compleanno qualcuno li mette. La famiglia era radunata insieme, facendo uno dei tanti collegamenti in televisione in cui si parlava della figlia scomparsa. Improvvisamente la stessa televisione che doveva servire a ricostruire un filo di un episodio che angosciava la loro esistenza è quella che gli dà la notizia. La madre perplessa, con i capelli rossi tinti, impietrita, inquadrata, in primissimo piano, ascolta la giornalista che giustamente in quel momento fa il suo mestiere, dice quello che è accaduto. Sabrina, ma tu sai qualche cosa? C'era qualche cosa che insomma non avevate detto? Non lo so, perché veramente Maria Lucia... In questo momento veramente, Federica, è impossibile... pensare di poter parlare con Sabrina, perché veramente è disperata, sta piangendo tanto, non credo che neanche lei si renda conto di quella che è la situazione. Anche lei non ha conferme di nessun tipo al momento, però naturalmente la sua tensione, la sua disperazione è evidente, non mi permette di chiederle nulla se non di allora di io credo che sia, e... sia fin troppo che insomma ci permette di stare a casa sua e sì. Comunque insomma sì. In qualche modo siamo rimasti, allora noi abbiamo detto chiaramente a Concetta di andare a casa, perché insomma era veramente assurdo che continuasse a avere... Dopo un po' naturalmente si rende conto perfino Federica Sciarelli della assurdità di quella situazione. Lei deve fare il suo mestiere, deve tenere la diretta. Ha il privilegio che qualunque giornalista vorrebbe, non prendetemi per cinico, il giornalista non deve essere un prete, il giornalista deve dare notizie. In quel momento la notizia dell'istante è la confessione dello zio che ha ucciso la nipote di cui si parla da mesi. Lei sta a casa dell'assassino, alla famiglia radunata, all'avvocato seduto, un avvocato dei tipici avvocati un po' di provincia, un po' stazzonato, però con il fazzolettino bianco infilato nella taschina del principe di Galles, i capelli un po' scomposti, la barba un po' lunga, la cravatta slacciata, allargata, va e viene, sta chiamando la moglie dell'assassino, non si sa bene cosa sia successo, invoca giustamente la correttezza dell'attendibilità della fonte, cioè ancora non ci sono fonti ufficiali che dicono questo, andiamo per ipotesi, ma già le agenzie, i giornali locali, i siti internet hanno prevaricato il bisogno di avere una fonte ufficiale, il fatto è già accaduto. A un certo punto, dico, la madre sarà allontanata da quel salottino, si ritornerà appunto in studio, si descriverà quello che sono i fatti, quelle sono le notizie, sentirà e poi ci ricollega con lo studio, con il salottino. Nel salottino c'è soltanto l'inviata. Il salottino è in presente vuoto, tutti i protagonisti, come se fosse un cambio di scena in un teatro, sono andati fuori, ognuno per conto suo. La madre è corsa fuori, non so, a parlare, a cercare. La figlia dell'assassino si sta prestando ad andare a trovare la madre, che non sa bene nemmeno a quel punto quale sia la sua situazione. Sono dileguati. E da sola l'inviata del programma descrive quello che è uno stato d'animo che lei prova in quel momento. Ma la domanda che mi faccio io allora, la televisione è un medium, è qualcosa che ci racconta un accadimento, o la televisione è proprio un luogo, è il luogo dove accade questa cosa? Avrebbe avuto senso questa cosa se fosse accaduta diversamente rispetto a come è accaduto? Oggi i giornali di questo parlano in realtà, dell'annuncio dato in televisione. Ma è giusto considerare osceno, considerare immorale, considerare fuori dell'ordine naturale dei sentimenti umani il fatto che la televisione sia così implacabile quando colpisce un accadimento nel suo svolgersi, anche se legato a sentimenti, legato a tragedie, legato a persone? Oppure la televisione fa questo perché ormai fa parte della nostra vita? Quindi non è la televisione che in quel momento fa cadere, amplifica, scarnifica e sciacallaggia una situazione. È che la situazione accade proprio in quel momento. E la televisione, giustamente, come se fosse una piazza, come se fosse un luogo qualsiasi fisico, ce lo fa vedere. 800240024. So che molti ieri avete guardato questo programma, perché io ho seguito su Facebook lo svolgimento delle opinioni, vi dirò quello che dicevano le persone che stavano così lì con me a seguire l'avvenimento, ma mi piacerebbe sapere questa mattina qual è stata la vostra impressione, qual è il vostro rapporto con la tragedia, con la morte, con l'irrazionale quando passa attraverso la televisione. Ancora pensate la televisione sia cattiva e determini la crudeltà di certi avvenimenti? Ormai non è il caso di considerare la televisione, come tutti quelli che noi chiamavamo medium, come delle circostanze necessarie alla nostra esistenza. Ci sono, non è più nemmeno il caso di capire se sono buoni o se sono cattivi. Esistono e quindi bisogna tenerne conto. ho visto dove c'era la cenere, ho visto la facciata del telefonino, mi è venuto una scossa al cuore. Perché? Perché l'hai venuto alla riconoscenza? Ho visto il lucchetto, che so che Sara le aveva certe cose. Ho telefonato a Valentina per dire a Sabrina se Sara ci aveva queste cose al telefonino, non si ricordavano, però il cuore lo diceva che era di Sara. Valentina ha detto di portarla a casa il telefonino, io ho detto no, perché se lo porto a casa nessuno mi crede, l'ho lasciato lì. Già, adesso sono già in disagio perché le persone che mi altro vedono... elemento da considerare in televisione è stato poi ritrasmesso da chi l'ha visto, questo spezzone interessante da un punto di vista proprio di analisi del messaggio, in cui lo zio Michele Misseri, assassino confesso, brutale assassino confesso, pochi giorni prima aveva ricostruito un suo molto goffo e molto sommario tentativo di costruzione di una verità che lo favorisse, che gli togliesse l'ansia e l'angoscia probabilmente di essere incolpato, o come probabilmente diranno poi criminologi, esperti, psicologi, come ogni vero assassino dà la prova per essere scoperto, perché l'assassino non è tale, l'omicida non è tale se poi non ha la gloria appunto della pubblica esecrazione. Recita una perfetta pièce televisiva, tanto che oggi qualche giornale dice ma non è possibile, quando già si aveva sospetti sulla sua persona, cioè non è possibile che una persona reciti in maniera così sublime, sia così infame davanti a una telecamera, finga le lacrime, finga tutto questo trasporto emotivo. Non è la prima volta che in televisione accade questo. Già altri efferrati assassini, assassini di bambini, assassini di ragazzi, assassini di figli, in televisione hanno creato una perfetta pantomima della loro innocenza. Ma il luogo televisivo è un luogo che affranca comunque dalle responsabilità, ci permette di interpretare le nostre verità che, come in Rashomon, si sovrappongono alle verità degli altri, dando l'impossibilità di trovare una verità. 800240024. Francesca, buongiorno. Buongiorno. Niente, anch'io ho visto la tele ieri sera, la trasmissione, però l'analisi l'ha fatta perfetta lei. Io volevo un po' allargare il discorso sul tema del pregiudizio, quanto questo bisogno di sicurezza, questo invocare continuamente l'esercito, visto anche la madre aveva fatto appello a Napolitano per l'esercito, perché in realtà si sperava di trovare il cattivo che veniva di fuori, da lontano, questo bisogno, bisognerebbe mettere allora un militare in ogni famiglia, va a finire questo bisogno di sicurezza, che dopo scopri che il nemico, l'assassino, ha quell'aria buona che nessuno sospetterebbe. A me mi interessava, ecco, analizzare anche da questo punto di vista qui. Ecco, dire. Io la ringrazio Francesca, però volevo andare avanti nell'analisi, non fermarsi all'analisi di ciò che accade nel mondo. Sono storie vecchie quanto è vecchia la storia del mondo. L'epica, la mitologia è piena di genitori assassini, di turpi zii, di ragazze prese, violentate, uccise, fatte a pezzi, trasformate in alberi, trasformate in animali per fuggire comunque ai loro assassini. Ma il fatto che la televisione ci permetta di osservare da dentro in maniera cruda, in maniera a volte nemmeno più mediata, noi vediamo esattamente, avevamo l'occhio in quella sorta di inferno che è il salottino buono di una famiglia. Lei pensa che davanti a quella ninfa di ceramica, davanti a quei vasi fioriti, davanti a quei doni, quei regali ancora di qualche nozze lontane, di qualche prima comunione, di qualche festa in famiglia, sono quelle cose terribili, kitsch, che vendono quegli empori di paese, che vanno dai saponi ai catini di plastica, ai regali da fare appunto per queste occasioni. Erano stati teatro probabilmente di riflessioni. Guardi, l'assassino è stato incastrato per un'intercettazione ambientale in cui la figlia diceva lo so che è stato lui che se l'è presa. Quindi in quel salottino ancora aleggiavano i fantasmi di una tragedia che incombeva sulla famiglia. Noi abbiamo visto in televisione come se quel salotto fosse il nostro salotto. Bruno, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Sì, mi sente? Certo, benissimo. Buongiorno, volevo soltanto dire, innanzitutto fare i complimenti al programma e a lei. Sì, ma adesso andiamo al punto. Perché... Sì, volevo dire soltanto che per quanto la cosa possa essere crudele, ma dal momento in cui la madre accetta di venire in diretta a sperare di avere notizie, deve essere anche pronta non solo a dare lei notizie, ma anche a ricevere notizie. Se la notizia è drammatica e doveva essere pronta a ricevere anche una notizia drammatica. Ecco, io in un primo tempo, ieri, quando vidi subito questa cosa in televisione, rimasi un po' scosso, perché vedevo questo primo piano sulla faccia della madre, ripeto, glaciale, era più ferma e senza un anelito di movimento, di vitalità, quella faccia della madre che il volto della ninfa di ceramica che stava alle sue spalle. Ho avuto un minimo di indignazione, ma ancora un residuo di senso morale legato alla televisione, che non dovrebbe evitare di mostrare certi lori. Poi, seguendo il thread degli interventi su Facebook, ho cominciato a vedere dichiarazioni dei soliti signori che dicevano: ah, che schifo, io la televisione non la guardo mai, io l'ho spenta, io da quando c'è Berlusconi non guardo più la televisione. Già immaginavo questi signori con il loro maglioncino viola che si fanno la canna a 50 anni sul loro terrazzo, ancora abbronzate dell'ultimo scampagnata che hanno fatto a Filicudi, che dicono che schifo questa brutta televisione, si chiudono nei loro altrettanto gelidi salottini, magari pieni di cose di buona firma. E invece è venuta l'idea che bisogna metterci dentro, infilarcisi, entrarci proprio a pie pari in questa realtà e guardarla con attenzione. Andrea. Sì, buongiorno Gianluca, chiamo da Treviso, buongiorno. Niente, io ieri sera l'ho seguita fino a tarda notte, ecco, la trasmissione della Federica Sciarelli, ecco. Quello che mi è rimasto più impresso è stato appunto quasi, ecco, che ci stiamo un po' abituando alla crudeltà della televisione, ecco. Ma ci siamo mai disabituati alla crudeltà noi? La domanda che le faccio io. Ma forse no, ecco. Quindi quello che io vorrei dire è che quasi ci stiamo abituando in maniera proprio quasi pericolosa, ecco. Ma guardi, quello zio non credo che fosse un indefesso cultore della televisione, l'abbiamo visto con la falciatrice che falciava il fieno, l'abbiamo visto nel suo garage, è il tipico esempio di residuo di realtà rurale che sembra non più rappresentata nel nostro paese, eppure è stato così bravo, è stato perfetto a ricostruire l'immagine dello zio affranto che ritrova il telefonino bruciato. Ma questo è il tipico comportamento, ecco, che i nostri criminologi appunto insegnano del nascondere di fronte alla realtà dei fatti, ecco, anche il fatto di voler lasciare, di mettere il telefonino lì, cioè avrebbe potuto distruggerlo, ecco, il telefonino, quasi inconsciamente lui ci ha portati, ecco, a riconoscerlo quasi. Però vede che la televisione ha trasformato in un romanzo che possiamo individualmente infarcire delle nostre impressioni, dei nostri racconti, quella che è una tragedia individuale, quindi in fondo il rendere collettivo un dolore individuale, un'angoscia individuale, è una maniera per elaborarlo. Che altri strumenti oggi ha per elaborare un dolore, un lutto, una persona, se non il fatto che sia una partecipazione televisiva che entra nel grande spettacolo? Cristian Uva, buongiorno. Buongiorno. Cristian Uva, ricercatore, docente di cinema digitale all'Università di Roma 3, è autore di Il terrore corre sul video, estetica della violenza, dalle BR a Al-Qaeda, edizioni Rubettino. Ci siamo già sentiti più volte, Cristian, ti sottopongo calda questa ultima rappresentazione di violenza televisiva, tu cosa ne dici? Ma guarda, io ho subito pensato, innanzitutto sono d'accordissimo con te sul fatto di questo luogo, della televisione come luogo, e ho pensato a quel luogo che proprio di fronte a un pozzo artesiano, un altro pozzo artesiano, quasi 30 anni fa, ci portava ad Alfredino Rampi, no? E alla tragedia di Alfredino seguita in diretta televisiva. Se molti dicono sia quello il punto zero di questo tipo di televisione, io non sono molto d'accordo, non ho una lettura moraleggiante. Il caso Alfredino Rampi doveva essere una grande kermesse istituzionale religiosa, veniva lì Pertini, preti, vescovi, pompieri, doveva essere il miracolo della alacrità e dell'altruismo italiano che salva il bambino. Gli andò male perché ancora non avevano considerato alcune cose, ma non c'era una volontà di rappresentare la morte. La morte entrò di soppiatto e fu repentina in quel momento. Sì, anche se io però ho pensato a questo non tanto specificamente in riferimento al fatto di oggi, ma perché c'è un'altra coincidenza molto strana, il fatto che se Alfredino scompariva in quel pozzo il 10 giugno 81, lo stesso 10 giugno 81 veniva rapito Roberto Peci, fratello di Patrizio, no, l'infame, certo, del PR, e veniva processato di fronte a una videocamera ancora non digitale da Senzani, da Giovanni Senzani. Quel video culminava con il proclama della sentenza di condanna a morte delle BR su Roberto Peci, e sul piano d'ascolto di Peci che ascoltava questa cosa, che sentiva questa condanna a morte. Ecco, io quando ho visto la donna, la madre ieri di quella povera ragazza, il piano d'ascolto, quello zoom che piano piano stringeva su di lei, forse per deformazione professionale ho pensato a qualcosa del genere, ho pensato ai video del terrore da questo punto di vista. E infatti io, passata la mia prima momento di pruderia residua, ho riflettuto, dico, ma in fondo Lasciarelli ha fatto quello che doveva fare, cos'altro poteva fare di diverso? Qualunque giornalista si trova lì, è nel momento caldo la notizia, segue la notizia. La cosa su cui non sono stato in accordo è stato proprio quello, dici te, lo zoom lento sul volto della madre mentre aveva la notizia. Uno poteva staccare in studio, se da lì non venivano notizie, cosa potevano sapere loro più di uno studio televisivo collegato a tutti i terminali d'agenzia, a tutte le fonti primarie di notizia. Invece hanno tenuto il pathos fermo sul volto della madre, che non sapeva che dire, con i capelli tinti per la diretta televisiva, acchittata anche lei per raccontare in televisione o sperare che la televisione risolvesse il suo problema, bloccata da quella cosa, probabilmente già era nell'aria, già in quel salottino c'erano i fantasmi di quello zio omicida, perché ne hanno parlato, erano stati intercettati. Ecco, questo è stato l'unico punto che mi ha fatto riflettere, ma in realtà forse è soltanto un indulgere anche comprensivo di chi in quel momento ha in mano una cosa di cui si rende conto della forza e del successo che potrebbe avere. Ci sentiamo tra un istante, Christian, anche con gli ascoltatori. 800240024 è sulla crudele televisione o sulla crudele vita, che in fondo si sovrappongono e fanno in modo che l'una racconti l'altra. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Concetta, vuole che terminiamo il programma? Mi dica lei, perché se lei vuole che noi smettiamo il programma, io interrompo immediatamente la programmazione di chi l'ha visto, decida lei, ovviamente. Sì, è meglio. Comunque, Federica, perché Federica, guardi, cioè, comunque sicuramente Concetta, Cosima, prego. Volete accompagnare Concetta? Io non so se io invito tutti alla prudenza e alla l'unica, cautela, come sempre. L'unica frase pronunciata dalla madre di Sara Scazzi è stata «è meglio», avete sentito, quando Lasciarelli, la demiurga dell'immaginario televisivo di quella notte, che aveva in mano l'immaginario e l'angoscia, tutti i spettatori, ha già fatto un top di ascolti che nemmeno vi immaginate, ve lo prevedo, ancora non ho dati audited, dice «vuole che interrompo subito la trasmissione?» La madre ha detto è meglio, però la trasmissione non è che sia interrotta, è continuata, fino a che a un certo punto se ne sono tutti andati, ma richiamati dalla necessità di uscire da quel luogo e andare in un altro luogo, perché altrove c'erano interrogatori, c'erano parenti, c'erano zii, era tutto nel coacervo di quella famiglia quello che stava accadendo. Vi leggo qualche messaggio, stiamo riflettendo di quello che abbiamo visto tutti ieri in televisione. Il punto di vista non è moraleggiante, non è neoluddista, non è schifosamente snob di dire ah che schifo la televisione, non guardo più la televisione, è l'abiezione, la televisione ormai siamo arrivati a dei livelli, io trovavo molto più osceno il maccherone infilato in bocca a Bossi, devo dire la sincera verità, se avessi voluto parlare di iconografia oscena per il luogo, per la situazione e tutto, ma visto che questa situazione appassiona i nostri ascoltatori, io vado avanti, non lo faccio per cinismo, ogni tanto mi piace fare il punto sul mondo riflesso nella televisione, ho parlato per 15 anni, tutti i giorni, tutte le mattine, in diretta di quello che accadeva in televisione, raccontandolo punto per punto, spezzandola, eviscerandola, facendo radiografia quotidiana, televisione. Poi ho smesso, poi mi sono stufato, non mi dava più nessun motivo di interesse, era sempre uguale, anzi ultimamente si è talmente confusa con la realtà che non va più nemmeno di dare segnali di differenza, ma quando c'è qualche indicatore come questo vale la pena di ritornarci. Vi leggo qualche messaggio su Facebook. Massimo dice una cosa molto giusta: come non ci si indigna? Leggi i messaggi, è lo sport più diffuso, l'indignazione è l'atto ribelle con il miglior rapporto qualità-prezzo. Ieri ho andato a quel paese una signora che voleva che per forza sottoscrivessi un suo gruppo su Facebook dedicato ai matrimoni forzati, combinati, non so, protestiamo e facciamo un gruppo. Ma cosa serve fare un gruppo? Per sentirsi buoni, per vedere agli altri che siamo dalla parte giusta. Ma chi se ne importa? Poi andiamo avanti. Una cosa molto intelligente lo dice Cristina. Cristina dice: la strana coincidenza che è sempre un lunedì sera. Il lunedì sera, quando va in onda Chi l'ha vista, è stato il giorno in cui furono trovati il piccolo Tommy e i fratellini Pappalardo. È vero, stranamente esiste una coincidenza che il lunedì sera, giorno abbastanza tipico per fare interrogatori, per concludere situazioni, accade sempre che la risoluzione di un noto fatto di sangue, di un delitto insoluto, si risolva il lunedì sera in diretta con Chi l'ha visto. Dico soltanto questa riflessione all'ascoltatrice, che la trovo molto sensata. Roberto, di cosa ci stupiamo? Io, guardando il programma, ho avuto l'impressione che i protagonisti della vicenda sapessero già tutto. È come se la TV avesse soltanto reso spettacolare una notizia già nota nella famiglia di Sara. È vero, questa è stata l'impressione, che quel salottino fosse già impregnato di una tragedia familiare nascosta, occulta, non sufficientemente portata alla luce. Poi vedrete, questi giorni ci sarà chi avrà modo di raccontarlo. Io già vi posso prevedere, anche se non ci sono, le riunioni frenetiche nelle relazioni dei grandi talk della sera. Staranno tutti lì, manderanno inviati e via dicendo. Teresa, buongiorno. Buongiorno. Senta, secondo me Lasciarelli, che seguo sempre, è bravissima, avrebbe dovuto dare la notizia così come ha fatto e fare eventuali aggiornamenti, però immediatamente sospendere il collegamento con la famiglia. Non mi piace dare lezioni ai colleghi, anche perché uno deve trovarsi in quella situazione da gestire una diretta in quel momento particolare. Anch'io sono dell'impressione che, in effetti, quello zoom lento di cui diceva Cristian Uva sul volto della madre poteva essere evitato. Ma se fosse evitato oggi, di cosa avremmo parlato? Se non Però io penso al dolore di quella mamma in quel momento, che... Sì, però diciamo un'altra cosa. Quella mamma era perfettamente consapevole che stava in televisione, che faceva parte di una rappresentazione della sua tragedia, finalizzata naturalmente alla risoluzione del caso, finalizzata a una giusta e lecita elaborazione del proprio dolore. Io non mi sono mai sentito di criticare le persone che vanno in televisione a raccontare le loro tragedie, perché la schiera dei moralisti con il maglioncino sono tutti a dire: ah, non si va in televisione. No, la televisione elabora. Che cosa elabora oggi un dolore? Esiste più una cerchia di amici, un clan, una società solidale che ci sta intorno e ci viene a tenere la mano quando soffriamo? No, si va in televisione, si racconta, si partecipa a tutti del proprio dolore e ci si sente meglio. Se è una maniera per sentirsi meglio, non me la sento di criticarla. Stefania. Buongiorno. Io volevo intervenire in merito, secondo me la signora Sciarelli ha fatto benissimo il suo lavoro, ma al di là di questo non sta a me, come giustamente diceva lei. Sì, cerchiamo di allargare il punto di vista, perché qua non è il processo alla Sciarelli, fine, okay. Ha fatto il suo lavoro e l'ha fatto allora, bene, basta. Io però, da mamma, sono rimasta impressionata dal viso della madre, che è rimasto imperturbabile, è rimasto... Non ha dato nessun segno, non ha pianto, non si è disperata. Io non so cosa avrei potuto fare. No, se no non lo dica questo, perché non lo sa, proprio perché non lo sa, non sa cosa significa. Nessuno di noi è giudice delle esternazioni emotive nei momenti di grande dolore. Che ne sa, uno rimane impietrito. A me è successo avere lutti anche molto recenti e la mia reazione è stata non fare nulla. Non nemmeno inseguire le lacrime che non venivano, non fare nulla. Ognuno reagisce a modo suo di fronte al dolore e ognuno reagisce in maniera diversa di fronte al dolore quando il dolore ha questa sua istantanea pubblicazione e diventa un fatto collettivo. Cristian Uva, ricordo, ricercatore docente di cinema digitale a Roma 3, autore e studioso proprio della violenza rappresentata in televisione. Sì, guarda, io prima stavo aggiungendo un particolare alla descrizione che peraltro tu hai fatto mirabilmente delle inquadrature, no? di quella che è stata la resa visiva. C'è un aspetto anche che riguarda l'audio, e cioè quel pianto fuori campo di Sabrina, se non sbaglio, no? Sì, quindi la figlia dell'assassino, proprio. La cugina dell'ammazzato. Esatto. Quella che già sapeva, che già è stata intercettata, diceva: sapeva. So che è stato lui. Esatto, e lì sentiamo, quello è il momento poi culminante che porta verso la decisione anche della Sciarelli, no, di chiudere. Credo che anche quell'aspetto abbia determinato, è un aspetto non certo marginale, questo pianto che sentiamo fuori campo, questa presenza che inseguiamo, che vorremmo vedere, quindi, cioè, voglio dire, dal punto di vista della messa in scena audiovisiva della tragedia, diciamo così, c'erano veramente tutti gli elementi, no? Perché il quadro fosse confezionato alla perfezione. Naturalmente da qui non arrivo a pensare o a dire che fosse tutto preparato, non lo credo. No, non lo voglio nemmeno insinuare, però il fatto che accada sempre il lunedì sera che si risolvano alcuni fatti che sei utile a visto. E diciamo che è una singolare coincidenza. Sì. E quindi ecco, volevo solo sottolineare questo ulteriore aspetto. Però era mercoledì, diciamo, ieri, ecco. Quindi diciamo il giorno in cui c'è chi l'ha visto, perché sennò a volte è mercoledì. Esatto, il giorno che esatto. C'è chi l'ha visto, ieri era mercoledì, non era lunedì. Dunque, ecco, questo era un altro aspetto che insomma mi pare non da poco, ecco, nella confezione, ripeto, audiovisiva di questa tragedia che comunque tu già dall'inizio hai descritto in maniera molto chiara. Ecco, tu vorrei ritornare un attimo sul video che dicevi confezionato ai tempi degli anni di piombo sul caso Peci. Noti che esiste una sorta di stile ricorrente o di canoni stilistici ricorrenti quando si rappresenta violenza e dolore. Tu hai descritto esattamente quello che poi a distanza di 20-25 anni era lo schema costitutivo dei famosi video, che poi non ci sono più, delle decapitazioni di Al-Qaeda in televisione. Ricordi, messi in internet, in televisione se ne ha soltanto alcuni particolari, era un processo sommario, la lettura di una sentenza, una decapitazione in diretta. Sì, guarda, io appunto insisto su quel video appunto di Peci, che in qualche modo ha aperto, diciamo così, la strada. Ricordiamoci comunque che l'anno, pochi anni prima, nel 78, la RAF faceva la stessa cosa con Schleyer, no? Con questo ostaggio che era il presidente della Confindustria tedesca, no? Poco prima di Moro. Quindi ricordiamoci che i veri, come dire, precursori di Al-Qaeda forse sono i Bader, Meinhof della RAF. Ma ad ogni modo insisto sull'uso di questo mezzo, su questo zoom, ripeto, sul viso del condannato a morte, che ha aperto la strada alla televisione del dolore, e penso alle tante televisioni appunto di Giletti e compagni, no? Che su questi zoom si sono poi soffermate. Però esiste uno sfasamento cronologico temporale che modifica un po' la percezione. La Sciarelli aveva la diretta e accadeva in quel momento. Brava lei, bravo chi l'ha pensato, bravo chi riesce a creare queste coincidenze, che nel momento di chi l'ha visto accade sempre qualcosa. Abbiamo l'emozione del fatto che sta accadendo. Giletti è il riscaldamento del minestrone, è qualcosa di completamente diverso secondo me. Certo, no, questo senz'altro, però ecco, come dire, quest'idea insomma dell'approfondimento, anzi dello sprofondamento, no, nel piano d'ascolto, nel viso, nel dolore, nelle rughe, nella lacrima, insomma, dell'essere umano, ecco, questo da Senzani ai registi Rai, diciamo, non c'è stata una grande differenza, naturalmente solo in questi termini. Ci fermiamo un istante, Cristian, che devo dare le informazioni del traffico, poi chiudiamo l'ultima parte di questa trasmissione, perché abbiamo vari ospiti che stanno chiedendo di dire la loro, alcuni anche con ragione tecnica di giudizio. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Allora, guardate, facciamo una cosa. Dobbiamo andare a cercare conferme, una cosa esatto. Troppo. Allora, noi interrompiamo il collegamento, Maria Lucia, in questo momento, adesso faremo gli appelli, altre cose, eccetera. Noi cerchiamo tutti insieme appunto una notizia, speriamo che sconfessi la notizia che sta circolando in queste ore, perché questo si spera. Tu stai a casa lì, se vuoi accompagnare qui Sabrina. Ma Sabrina, qui Sabrina, e continua a dire, lei al telefono sta richiamando nuovamente la sorella. Stiamo seguendo in diretta la storia di una famiglia che ha accettato di essere storia collettiva della propria tragedia, che sta vivendo il momento fatale in cui quello che probabilmente già era una verità palpabile, percepibile, anche se non rivelata chiaramente, che all'interno di quella famiglia era l'assassino di Sara Scazzi, però che sta recitando una parte in televisione, ma recitando non in senso malevolo, non perché sta fingendo, sta rappresentando se stessa in televisione anche con l'assenza. La cugina che è fuori campo, che sta telefonando alla madre, che è moglie dell'assassino, che gli sta raccontando quello che accade, questa telefonata viene raccontata dall'inviata che sta nel salottino buono appunto dell'assassino. Dice Maria Nazarin: la TV è l'unico mezzo rimasto per farci vedere come siamo, senza maschere, senza orpelli, al naturale. La TV non è un medium, ma è solo un rivelatore di realtà, che ci piaccia o no. Io da 20 anni dico e scrivo che in realtà non guardiamo noi la televisione. Quelli dicono: ah, io non guardo più la televisione da tanto tempo, stanno lì e riflettono sulla loro insipienza. La televisione ci guarda, noi siamo il frutto dell'osservazione della televisione. Quando la televisione si accorge di noi, se non se ne accorge, non esistiamo. Giuseppe. Buongiorno. Pronto? Sì, sì, l'ascolto, Giuseppe. Ok, buongiorno. Senta, la mia non so se è posizione moralista, non amo la televisione, però non c'ho il maglioncino viola e la carta. E l'abbronzatura di Filicudi. No, l'abbronzatura sì, perché cioè, per fortuna sono meridionale, quindi ce l'ho. Vabbè, ce l'ha da quando è nato, sì. Sì, esatto. Però a prescindere da questa premessa, io penso che l'insistenza del... che poi è una cosa che già avete detto, però l'insistenza della Camera sulla povera madre mi è sembrato qualcosa di... Io toglierei il termine povera, nessuno è povero. Quando si è nello spettacolo non si è povero nessuno. Ha ragione, mi sembra... Non è povera, è la madre di una figlia assassinata, fine. Ok, va bene. Quindi diciamo questo è un primo aspetto. Un secondo aspetto che mi è venuto in mente mentre vi ascoltavo è che Lasciarelli a un certo punto legge la notizia come è stata pubblicata dal quotidiano di Puglia, quasi a voler giustificare la scelta redazionale. Guardi, fanno un po' di ammuina in quel momento, cercando di diluire l'impatto, ma sulle agenzie era già uscita la notizia, io avevo sott'occhio le agenzie, era già uscita la notizia, è che volevano una conferma, quando esce un lancio d'agenzia non è che ci sia poi sempre una conferma ufficiale di una fonte autorizzata, le agenzie già dicevano stanno cercando il corpo, infatti a un certo punto si sente un elicottero e il fratello dice è un elicottero sopra di noi che passa, in effetti è vero, era l'elicottero delle persone che andavano lì a scavare nel pozzo artesiano per trovare il cadavere. Abbiamo al telefono Pasquale Squitieri che ci sente tutti i giorni, ogni tanto ci telefona, buongiorno Squitieri. Buongiorno, buongiorno. Io apprezzo la sua trasmissione, l'uso della lingua che lei fa, la profondità delle analisi. E allora mi viene in mente... Vorrei sentirmela dire molto spesso questa frase. No, è vero, guardi, io non dico, anzi, non sono uno che faccia complimenti. Sì, ma non anche da altre persone. Beh, andiamo avanti, Squitieri, no, divaghiamo. Qual è il suo punto di vista? Lei è un regista, quindi ha un occhio attento anche ai particolari di regia, se vogliamo dire involontaria di un evento. La riflessione a cui lei mi ha portato è questa: i linguaggi sono potere, no? L'Iliade è la televisione di 4.000 anni fa, poi l'Odissea, poi l'Eneide, cioè che cos'è? È il linguaggio scritto che viene proposto al popolo e il popolo crede in tutto quello che ci dice Omero o che ci dice Virgilio o che ci dice Dante, perché il linguaggio scritto nella sua diffusione, poi arrivano altri linguaggi, il linguaggio musicale e anche quello è potere e poi arriva il linguaggio delle immagini con Lumière, Marconi eccetera. Allora il problema qual è? È che il linguaggio delle immagini come di cui state parlando molto, molto giustamente, il linguaggio delle immagini ci fa vedere quello che il potere vuole che noi si veda, cioè questa storia della ragazza oscura i 2.000 ragazzi che spariscono in Italia tutti gli anni, oscura una tratta, io ho fatto un servizio per la RAI che si chiama Geografia della Fame, dove in Brasile trovavamo i ragazzini nell'immondizia. Qui erano stati tolti il cuore, il fegato, il sangue, tutto per i trapianti. Allora che succede? Che quando in prima pagina oggi c'è la storia di Sara, che è una storia alla Simenon, ce ne sono decine di queste storie. Però mi permette Squitieri, la parola potere la trovo un po' datata, mi sembra una lettura un po' anni 70. Io direi che in realtà la televisione ormai è un medium che si autoproduce, ha una sua autonomia, al di là della volontà di chi pensa di possederla. Sono stato in commissione RAI per 3 anni al Senato, non si autoproduce niente, la televisione è mantenuta, specialmente la RAI italiana, dagli spot, dalla pubblicità, senza di quella non regge la televisione. Sì, ma io vorrei fare un discorso, se possibile, un pochino più astratto rispetto alle fattispecie nazionali. La televisione ormai è una realtà cosmica, mondiale, è per tutti. La televisione sceglie i casi che in realtà l'alimentano, la fanno stare in vita. Questo le do ragione. Che il caso Sara Scazza avesse tutte le fattispecie per essere preso, seguito, eviscerato e risolto in televisione, vuol dire che l'epica quotidiana passa attraverso la televisione. E come Omero ha scelto una particolare storia che gli aveva colpito particolarmente, non sarà stato Menelao l'unico uomo cornuto e non sarà stata Elena l'unica troia di Troia di quell'epoca, però quella ce la ricordiamo, lo sappiamo, perché l'ha raccontata Omero. E per la stessa ragione, alcune persone o il meccanismo stesso sceglie alcune storie che sono funzionali. Maria Luisa. Sì, buongiorno. Sì, la sto ascoltando. Allora, benissimo. Io l'ho spento il televisore ieri sera. Quando ho visto dove stava andando a parare la storia... Ognuno fa le sue scelte. Ecco, per rispetto al dolore della mamma, ho spento il televisore. Vabbè, non è che il dolore della mamma era lenito dal fatto che lei spegnesse il televisore, anzi. No, perché sono gesti simbolici, noi li facciamo, però bisogna anche capire cosa c'è dietro. Lei spegne il televisore e dice non voglio vedere, mi rifiuto. Va bene, è una scelta giusta. Io non mi rifiuto mai di guardare, non mi rifiuto mai di ascoltare, perché io voglio essere testimone consapevole del tempo che vivo. Quindi io l'avrei visto fino all'ultimo istante quel programma, perché voglio capire, voglio vedere. Non avrei mai occasione per vedere una realtà così dal vivo. Quando mai lei è entrata nella casa di un assassino con la famiglia radunata della vittima? Mai. In quel momento c'era. Perché deve chiudere la televisione e non voglio guardare? Perché io non ci tenevo a entrare, e quello che sa. Io ci tengo a conoscere oggi, il mondo in tutti i suoi aspetti. Siamo fatti diversi. Sì, ma infatti, quello ma che potevo rispetto sapere ieri sera in modo raffazzonato, confuso, lo saprò magari stamattina con calma. Ma questa è un'altra cosa che le fa onore, perché ha un tempo diverso rispetto alla necessità oggi di sovrapporre i vari tempi che abbiamo noi uomini contemporanei. Le cose vanno sapute subito, vanno sapute prima, e bisogna saperle nel momento che accadono. Questa almeno è la nostra intenzione. Christian, rispetto a quello che ci siamo detti fino adesso, proprio una battuta, stiamo concludendo, stiamo andando in sigla. Rispetto a quello che ha detto Squitieri, sei d'accordo che poi c'è una sorta di potere occulto che determina, oppure il mezzo con me determina ciò che a lui dà onore, gloria e sopravvivenza? Ma oddio, appunto, anch'io queste letture sulle dietrologiche, diciamo così, in qualche modo le trovo forse un tantino datate. Io mi fermo a quello che vedo e mi interrogo su quale sia la linea di confine tra il servizio pubblico, fondamentale per una trasmissione come Chi l'ha visto, e lo spettacolo. Tutto qui. E anche questo è un concetto che forse è un po' datato, l'idea di servizio pubblico, quando entra poi anche in gioco lo spettacolo, entra altre necessità. Grazie Christian Uva, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito e ascoltato, ci sentiamo domani. Alors tous deux on est parti dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.